Jim, non avrà intenzione di restare qui a guardare in eterno. Si tratta di esseri intelligenti che hanno estremo bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo favorire il loro progresso. Qui non c'è mutamento, non c'è crescita da almeno 10.000 anni. Questa non è vita. È ristagno. Dottore, questa gente è sana e soprattutto felice. Comunque lei lo chiami, questo sistema funziona, malgrado la sua reazione emotiva contraria. Può darsi che funzioni per lei, signor Spock, ma non certo per me. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Come faccio di consueto, teletrasporto attivato ed eccomi atterrato sull'astronave Enterprise. Intanto guardate, c'è un meteorite, mi ha schivato, era un meteorite che insomma che ha schivato l'astronave Enterprise. E allora, com'è che va la serata? Sono 32 minuti primi dopo le ore 21, al microfono sempre come di consueto Andrea. In questa trasmissione molto bella, se avete letto il titolo, Star Trek, viaggio nella storia della musica, questa sera genio e sregolatezza. Il titolo direi dice tutto della trasmissione odierna. Ascolteremo alcuni grandi cantanti che hanno fatto appunto del loro genio e della loro sregolatezza proprio uno stile di vita. Purtroppo alcuni sono anche scomparsi in seguito a questo loro modo di vivere. Quindi non mi rimane altro che dirvi di visitare il mio sito www.startrekonline.org per leggere magari il mio blog, oppure semplicemente per ascoltare la diretta, che potete ascoltarla sia da lì oppure anche sul sito Spreaker. Quindi fate voi, insomma, questa sera a Star Trek si parla di musica come facciamo spesso, parliamo di cinema, di arte, di musica, insomma di cucina, però questa sera proprio è uno speciale dedicato alla musica. Come stavo dicendo in precedenza, tratteremo argomenti di artisti che hanno avuto una vita molto molto travagliata. E pensate un po', proprio oggi, 22 anni fa, ci lasciava il mitico Kurt Cobain dei Nirvana. Indimenticabile frontman dei Nirvana, è stato la figura più carismatica del grunge, assolutamente vero. C'è un bellissimo articolo di Panorama, eh? Pochi album come Nevermind dei Nirvana hanno avuto un impatto così forte su una generazione, quella degli adolescenti dei primi anni 90, che ritrovavano il grunge nell'ultima vera rivoluzione del rock, la stessa furia inconquistata del punk, trascinando dall'iconica Smells Like Teen Spirit di Nevermind, è considerato ancora oggi, pensate, a 25 anni dalla sua uscita, un disco fondamentale per gli appassionati del rock, frutto del genio di Kurt Cobain. Poi l'articolo continua, per l'appunto, l'apice del successo, una forte depressione peggiorata dall'abuso di droghe e di stupefacenti ha portato il cantante a suicidarsi il 5 aprile del 1994 nella sua villa di Lake Washington a Seattle. Cobain è alla posizione numero 45 nella lista dei migliori appunto artisti, dei migliori musicisti, per celebrare la figura di Kurt Cobain. Appunto, Panorama vuole ripercorrere le sue 15 frasi più belle. Noi ne leggiamo qualcuna, così, tanto per ricordare questo grande artista. Fai dono della tua musica, questo era riferito alla musica. Poi ce n'è una riferito al sistema. Mi piace infiltrarmi nell'ingranaggio di un sistema fingendo di farne parte e poi lentamente far marcire tutto l'impero del denaro. Pensate un po', quindi. Mentre il proprio nome su un disco non conta un cazzo, chiunque lo può fare, ma c'è una grande differenza tra raggiungere la notorietà e conquistare il rispetto di sé attraverso la musica. Queste sono alcune delle frasi appunto citate da Panorama. Se volete leggere le altre, visitate per l'appunto il sito di Panorama. In apertura, il primo disco non poteva che essere dedicato appunto alla memoria di Kurt Cobain dei Nirvana. La sua canzone forse più amata dalle generazioni, dal sottoscritto sicuramente. Questa è Small Like Teen Spirit, Nirvana con Kurt Cobain. Buon ascolto. Nirvana con Kurt Cobain, Smell Like Teen Spirit, primo pezzo ufficiale di Star Trek, viaggio nella storia della musica, doverosa la prima canzone dedicata a lui, e ricordarlo questa notte mi sembra doveroso e ovvio. Ciao Kurt, ovunque tu sia, insomma, anche noi ti stiamo ricordando, la grande qua a Star Trek. Siete tutti a bordo dell'astronave Enterprise con Andrea e con la nostra grande musica questa sera, specialissimo dedicato agli artisti maledetti, passatemi in termine, magari come potremmo definirli, visto che sono i poeti maledetti, direi anche artisti maledetti, appunto gli artisti maledetti della musica. Cos'è? Sento qualcosa, è una sirena della polizia, esatto. È una sirena della polizia, vogliono portarla via me? Spero di no, spero ragazzi. Lo so, sento questa sirena, era una sirena della polizia. Forse vogliono portare via il sottoscritto. No, dai, sto scherzando. Visto che si parlava appunto di Nirvana, ora introduciamo un altro grande, grandissimo della musica internazionale, Jim Morrison. Ecco perché c'era la sirena della polizia. Forse probabilmente, non so, volevano portare via lui, che le dite? Vabbè. Jim Morrison, detto Jim, è nato a Melbourne l'8 dicembre del 1943, è morto purtroppo a Parigi il 3 luglio 1971 in circostanze molto molto strane. È stato un cantautore e poeta statunitense, leader carismatico e frontman della band statunitense The Doors, che tutti voi conoscete. Fu uno dei più importanti esponenti della rivoluzione culturale degli anni 60, nonché uno dei più grandi cantanti rock della storia. Wikipedia appunto lo ricorda così: impetuoso profeta della libertà e poeta maledetto, è ricordato come una delle figure di maggior potere seduttivo nella storia della musica e uno dei massimi simboli dell'inquietudine giovanile. Era soprannominato il re Lucertola e venne paragonato a Dionisio, divinità del delirio e della liberazione dei sensi. Nel 2008 Morrison è stato posizionato al 47° posto nella lista delle 100 migliori cantanti secondo la rivista Rolling Stones e l'anno successivo al 22° posto nella classifica dei 50 più grandi cantanti del rock, stilate per l'appunto dalla rivista britannica Classic Rock. Anche ora, per quanto concerne Morrison, appunto, tantissimi dischi da ricordare e noi purtroppo abbiamo solo mezz'oretta. Ora ci ascoltiamo proprio una sua canzone che, vabbè, è famosissima. Prima però una sua citazione: mi considero un essere umano intelligente e sensibile come l'anima di un clown. Questo era il grande Jim Morrison. Ora ci ascoltiamo proprio Roadhouse Blues Live, un bellissimo 45 giri per l'appunto di The Doors. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! Save our city. Save. che poi bisogna stabilire chi dei due è venuto a portare via la polizia, perché c'era questa sirena veramente inquietante che è entrata in scena questa sera qua a Star Trek. Jim Morrison con The Doors, questa era Roadhouse Blues in versione live, estratta da un 45 giri del 1986. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica con Andrea. Questa sera dedichiamo un ampio spazio alla musica dei cosiddetti cantautori maledetti, cioè quei cantanti che avevano uno stile di vita molto molto ai margini della società, abusavano di droghe eccetera eccetera. Abbiamo iniziato insomma con il panorama americano, però c'è spazio anche per ascoltare il panorama europeo, perché abbiamo dei grandissimi interpreti della musica francese, della chanson française e anche della canzone italiana che è doveroso ascoltare. Ora parliamo proprio di Francia e per l'appunto citiamo Serge Gainsbourg. L'anagrafe Lucien Gainsbourg, nato a Parigi il 2 aprile del 1928 e purtroppo scomparso sempre a Parigi il 2 marzo del 1991, è stato un cantautore, musicista, paroliere, poeta, pittore, attore e regista francese di origine ucraina. È molto conosciuto soprattutto per il suo successo internazionale che è avvenuto all'incirca verso la seconda metà degli anni 60. Appunto, è molto conosciuto per la canzone scritta dal titolo Je t'aime non plus, cantata in coppia anche con Jean Birky, che appunto era la seconda versione, perché la prima versione, se non erro, doveva essere cantata da Brigitte Bardot. Anche lui, quindi, Serge Gainsbourg, è stato un grandissimo artista poliedrico, persino pittore, pensate un po', ha avuto una vita abbastanza sregolata, ha girato il mondo, mi pare sia stato anche in Giamaica, e ora vorrei appunto leggere qualcosa proprio per un suo album del 1969. Infatti noi abbiamo estratto da questo album per l'appunto Je t'aime non plus una traccia che ascolteremo tra poco. Però la cosa molto curiosa è che quando uscì questo brano, per l'appunto la title track Je t'aime non plus, pensate che è stato censurato moltissimo in Italia, addirittura la RAI proibì a Lelio Luttazzi proprio di nominare il titolo della canzone, benché appunto il vinile fosse ai primi posti della hit parade appunto. E lo stesso Osservatorio Romano ha appoggiato la decisione della RAI appunto e ha dato la scomunica a uno dei produttori del brano. Nel Regno Unito invece venne bandito dalla BBC. Ora noi da questo album, insomma, così direi blasfemo, ma dai, non è mica vero, perché si sentono un po' dei sospiri su questa canzone. Però sapete, a quei tempi in Italia la censura era veramente una mannaia non da poco, moltissime canzoni venivano spesso censurate. Noi da questo album bellissimo del 1969 ascoltiamo per l'appunto una traccia per voi, la musica di Serge Gainsbourg. Ventilateur qui passe au ciel du pays. je sème des grains de pavot sur les pavés de la rue. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sème des grains de pavot sur les pavés de la rue. Star Trek, viaggio nella storia della musica, Serge Gainsbourg. Questa canzone è stupenda, estratta dall'album Je t'aime, moi non plus. L'amuro, bellissimo, veramente, un Gainsbourg in piena forma, veramente. E ora, dalla Francia, invece, ci spostiamo all'Italia. Un altro grande cantautore, però qua su Wikipedia è veramente menzionato come, vediamo un pochino, cantautore, paroliere, produttore discografico, poeta, scrittore e attore italiano. Sto parlando per l'appunto di Franco Califano, che anche egli, insomma, ha avuto una vita molto molto sregolata, insomma, tra donne, insomma, e una vita veramente frenetica. Tra le tante curiosità ce n'è una che ho trovato per l'appunto su Califano, che non sapevo, però è particolare, diciamo così, molto molto direi anche carina, perché poi ha avuto anche dei problemi con la giustizia in quegli anni. Vediamo se riesco a ritrovare la news. Eccola qua, l'avevo vista prima. Eccola qua, politica. Quando fu arrestato nel 1983, scrisse una lettera per chiedere aiuto e sostegno a Bettino Craxi, il leader socialista. Pensate un po', Craxi gli fu vicino e dopo questo episodio i due divennero amici. Alle elezioni politiche del 1992 si è candidato con il Partito Socialista Democratico Italiano senza però essere eletto. Non la sapevo questa cosa qua. Nel 2008, in occasione di un suo 60° compleanno, festeggiato a Piazza Navona, ha affermato: «Io sono liberale anticomunista. Ho chiesto al sindaco Nemanno, mio caro amico, di poter cantare in quella bella piazza. E lui mi ha fatto un meraviglioso regalo. Per 5 anni mi ha impedito di cantare perché mi hanno bollato come uno di destra. Conoscevo bene sia Rutelli sia Veltroni. Il primo si è sempre comportato bene, il secondo mi ha ignorato e non so perché». Insomma, Califano, un personaggio scomodo che si era lanciato anche nella politica. Non la sapevo questa cosa, però, come ben sapete, insomma, questi miti della musica italiana internazionale, insomma, non sono dediti solo a produrre canzoni o scrivere canzoni, ma sono veramente degli artisti a 360 gradi. Ora di Franco Califano ascoltiamo una canzone meravigliosa, a me piace tantissimo, l'ho ascoltata anche questa mattina in macchina, vabbè, dai, ve lo confesso. È Autostop, per voi, Franco Califano. Uno zaino per terra in tenuta da guerra, tu fai l'autostop. Sei talmente carina che la mia frenata si spiega da sé. Mi sorride in un lampo, ti sistemi al mio fianco dicendomi: senta, come si va in bianco, faccio l'autostop. Non l'amore, io non fumo, io non fumo il tuo modo di dire rifiuto, la corte da te. Io che stavo impazzendo, ti dico scherzando, ma ce l'hai con me. Da che parte vuoi andare, sia pure all'inferno, su me puoi contare, andate e ritorno a giocare un po'. Diverto anch'io, ma poi fumo. Io sto qua a posto mio, vado in bianco fino a sera, poi disistemo io. Io sto qua, non dico ti conosco appena e rischierei. anche tu dopo un po' sei crollata, è dura com'è. Una macchina ferma e sull'erba bagnata, ci siamo io e te. Ci vestiamo in un lampo, non salire al mio fianco, ti devo lasciare, sono un po' stanco, vai con l'autostop. Io ritorno giù, che fumata. Ci restiamo in un lampo, non salire al mio fianco, ti devo lasciare perché sono un po' stanco. Vai con l'autostop, io ritorno giù, che fumata. Io sto qua, al posto mio, vado in bianco fino a sera, poi disistemo io. Io sto qua, ed eccolo qua il Califfo, Franco Califano, Autostop. Meravigliosa questa canzone, anche tutto l'album che appunto compone questa traccia è stupendo, ascoltatelo, del 1979. E su Franco Califano un mio pensiero personale, è veramente un uomo che ha amato tanto le donne, proprio insomma ha regalato queste canzoni, queste perle veramente memorabili della musica italiana. Grande Franco. E purtroppo ora, quando sentite insomma questa base, significa proprio che siamo giunti al termine di Star Trek. Purtroppo è così, 30 minuti sono volati. Ho cercato di fare stare in 30 minuti alcuni dei più grandi cantautori italiani, francesi, internazionali, insomma 30 minuti sono veramente poco per parlare di questi geni molto molto sregolati, però dei veri e propri geni musicali. Abbiamo ricordato Kurt Cobain, Jim Morrison, insomma Serge Gainsbourg, e abbiamo concluso con il Prevert di Trastevere, Franco Califano, una bella conclusione. Vi ho poco, diciamo così, menzionato i nostri contatti, perché vabbè, quando abbiamo questi ospiti qua a bordo dell'astronave Enterprise, quando scatta il teletrasporto, dicevo appunto, quando abbiamo a bordo questi ospiti mitici, purtroppo magari si perde un pochino via. Comunque vi ricordo www.startrekonline.org. Io sono Andrea, saluto ancora tutti voi, vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia, un saluto doveroso va anche a chi è che ci ascolterà in podcast questa sera, quindi continuate ad ascoltarci se vi va, continuate a scaricare le canzoni se vi piacciono, il programma quindi, e sono 59 minuti primi dopo le ore 21, è proprio tutto. Io chiudo qua la diretta e vi aspetto prossimamente per un ennesimo viaggio nella storia della musica. Buona serata a tutti, buonanotte o buon pomeriggio che ci ascolta in podcast. Ciao a tutti da Andrea. Bye bye.